il rock di B-Radio. Ok, ok, benissimo, questa cavalcata negli anni 60. Ancora un altro pezzo, Franco, dai, forza, sì, che abbiamo ancora tempo. Una cosa importantissima devo dire però, che questa, la versione beat di questa serie di tutti i nostri brani è rigorosamente unplugged. Certo, bisogna chiarire questo, bisogna perché chiarirlo, Il sound del beat era rigorosamente con le chitarre elettriche, eventualmente c'era un'acustica in accompagnamento. Mentre questa sera abbiamo fatto una versione beat unplugged. Questo è molto importante per gli amanti del sound, del beat, sì, che giusto, hanno sentito. Bisogna sottolinearlo, le chitarre elettriche assolute, però qua le chitarre elettriche... Questa sera siamo unplugged. Bene Franco, sei pronto allora? Devo salutare i Ruzzantini Pavani, con i quali noi abbiamo registrato una, che poi è uscita una raccolta, una mia raccolta dal titolo Frammenti. Sì, che è uscita di recente. Dove abbiamo eseguito un brano dei Beatles, Yellow Submarine, e l'abbiamo fatta diventare una cosa scherzosa. Benissimo, allora con questo... A me piace lì. Perfetto, con questo pezzo salutiamo, e adesso ancora alla band.